filled the mouth was full of air. Well, just an aspidate. But now I know how I feel inside. I scream, you'll never come back. Ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco della Wild Shooter Band Inside. Come si chiamava questa canzone? Questa era Never Come Back. Quali ora gli obiettivi della band per il futuro prossimo? Allora, continueremo per tutta l'Italia, al centro Italia, soprattutto a Roma, dove noi siamo nativi, e faremo un piccolo tour al sud, e sono previste anche delle date qui vicino, insomma, nel nord Italia. Perciò continueremo per adesso soprattutto a fare concerti, concerti, concerti. La cosa più importante è che noi lavoriamo con la TSP Entertainment di Tony Brook, tedesca, per quanto riguarda il booking, e abbiamo in programma, proprio in questi giorni abbiamo avuto delle buone proposte per poter ritornare appunto in Polonia, dove siamo appena stati per il Blues Festival, ad un altro Blues Festival che ci sarà per la fine del 2012, e dovremo poi realizzare altri due tour sempre per questo 2012 in Germania e nel 2013 nei club in Germania sempre. Siamo a questo brano, cosa fate sentire? Faremo sentire Why You Told Me To Go, che è anche il nostro ultimo singolo nel quale abbiamo realizzato il video, quindi se capita su YouTube di andare a dare un check out a Why You Told Me To Go. Thank you. for the first time, baby. Although the wind of war sounds snow, it was very cold. It seems to be, it seemed to see your face on a TV screen. But you were not a fiction, you were a reality. Siamo agli sgoccioli di puntata, vi ricordo allora i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it, ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio. Un grazie alla Wild Shooter Band per la partecipazione, a questo punto la parola a voi per i contatti web ed informazioni sul vostro disco oltre ai live in programmazione. Allora, il nostro disco si può trovare su tutti i canali web di iTunes, Amazon, lo potete scaricare tranquillamente dai nostri link web del sito www.wsbmusic.com, www.wildshooterband.com, il MySpace, il Facebook e lo YouTube sono praticamente tutti quanti sotto la denominazione Wild Shooter Band. Per quanto riguarda i prossimi concerti, noi stiamo in questo periodo estivo, parteciperemo a probabilmente un paio di festival qui in Italia in cui sono delle date da definire e stiamo lavorando per il nuovo disco, quindi il periodo estivo sarà un periodo di lungo lavoro. Nella prossima stagione, come abbiamo già detto prima, avremo diverse date in tutta Italia, sud, centro e nord, quindi potete trovare le date sul sito, aggiornate man mano, quindi seguiteci assolutamente. E colgo l'occasione per ringraziare un po' tutto quello che è il nostro staff e quello che ci ha consentito poi fino ad oggi di stare e di poter arrivare a suonare in tutta Europa e con i nostri buoni risultati. La Revel Records in primis, Dave Bechtel, il nostro produttore, Tony Brook per la TSP Entertainment del Booking e anche due persone in maniera particolare, Fabio e Romina, che partecipano attivamente per quanto riguarda il nostro tour assistant e Romina per quanto riguarda le coreografie nei nostri live show e la gestione dello spettacolo live. Brano di chiusura? Brano di chiusura è Smokey Chicago. Jean-Luc e la Wild Shooter Band vi salutano, noi ci risentiamo a settembre per la ripresa delle puntate di Rock Legends, come sempre con altre band, ospiti e un altro grande vintage rock. Ciao! flesh lies in the seed. Your body's known as best close. If you're rising and run away, I cannot see you. Along the lane, looking for the blues. Everyone's gonna lie to low. Shining lights in the distance, in the silent ideas. As you rise in the dark and the dead of night. Smoke, smoke, smoke, Chicago. Where the blues is deep in your soul. Smoke, smoke, smoke, Chicago. Where the buildings are high. All my sunshine in the sky. Smoke, smoke, smoke, Chicago. Where the blues is deep in your soul. Smoke, smoke, smoke, Chicago. Where the buildings are high. All my sunshine in the sky. Down in the club, everybody's watching. You gotta feel, just grab your guitar. Playing blues that come down from heaven and mixing with the smooth that counts down on Chicago. Smoke, smoke, smoke, shit.